Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Voglio solo anche a me stesso adottare quello che ha detto prima Pier Carditi, cioè che un parroco non deve ritornare nella propria parrocchia nemmeno per confessare. Grazie. Sia chiaro, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a chi faceva il nome di Romano Prodi come possibile sostituto di Renzi in questo momento di impasse, è stato chiarito in questo modo. Dice: anche il parroco non torna nella sua vecchia parrocchia neanche a confessare, quindi i nomi che si fanno adesso più probabilmente, più papabili insomma per il, come successore per Renzi, sono Padoan, Gentiloni, Franceschini, Grasso, si fanno vari nomi, però nelle prossime ore varie cose succederanno, soprattutto domani, perché domani si dovrebbe votare la fiducia sulla manovra economica, visto che Mattarella, scusate sempre questa raucedine, ha bloccato, ha congelato le dimissioni di Renzi per arrivare al compimento appunto dell'iter della legge di bilancio. Poi ci sarà la direzione del PD e da lì, oltre alla resa dei conti di cui si continua a parlare, cosa uscirà, che decisioni prenderà Matteo Renzi, quali saranno gli scenari che si aprono a partire da domani. Cercheremo di analizzare questa situazione d'impasse stasera, naturalmente buona parte di Effetto Notte lo dedicheremo alla politica, alla crisi di governo, e poi naturalmente altri temi come per esempio questa straordinaria invenzione in cui ha una buonissima parte l'Italia con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, un'invenzione che ha permesso a 6 persone paraplegiche di mangiare, di bere da sole. Quindi non perdete Effetto Notte, come sempre, prima di tutto un riassunto chiaro della giornata per essere sempre aggiornati a quest'ora, a fine appunto del giorno che si sta chiudendo, e poi approfondimento con i vari argomenti. Per interagire lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666, ve lo ripeto, 349-238-6666. Ma prima di tutto andiamo a vedere che giornata è stata. La crisi di governo, domani il voto sulla legge di bilancio e la direzione PD. Renzi è orientato a restare capo del partito e pensa a 2 opzioni, governo istituzionale o elezioni. Le opposizioni chiedono il voto subito, prima si vota meglio è, dice Grillo, e la Consulta fa sapere che si esprimerà sull'Italicum il 24 gennaio. Borsa anche oggi bene Piazza Affari, Milano chiude con un più 4,15% ai massimi dalla Brexit. I dati Istat sulle disuguaglianze, oltre un italiano su 4 a rischio povertà, al sud quasi 1 su 2, ampliata la forbice tra ricchi e poveri. L'omicidio di Regeni, ai genitori di Giulio, il procuratore egiziano dice troveremo i responsabili, lui era portatore di pace. Gran Bretagna, la prima ministra Theresa May annuncia che il governo britannico non intende estendere i negoziati per la Brexit oltre 2 anni e rivelerà i piani prima di avviare l'iter di uscita. Francia, dopo le dimissioni di Valls, candidato all'Eliseo, il ministro dell'interno Cazeneuve è il nuovo premier francese. Un bimbo con 2 madri, il tribunale di Napoli dice sì alla trascrizione dell'atto di nascita del minore concepito in Spagna. Scienza per la salute, con un guanto high-tech 6 quadriplegici mangiano da soli, si tratta di un esoscheletro nato tra Italia e Germania. Musica, Bocelli, Pausini e Morricone sono gli italiani candidati ai Grammy. Calcio, il derby romano, la procura della FIGC apre un procedimento su Lulic e le sue frasi razziste. E stasera per la Champions League il Napoli a Lisbona contro il Benfica si gioca la qualificazione agli ottavi. Partiamo naturalmente quindi dalla crisi di governo e quello che sta avvenendo. Dimissioni confermate, ma elezioni non subito. Sarà questo il messaggio che Matteo Renzi lancerà alla direzione nazionale del PD. La crisi accelera con fiducia sulla legge di bilancio e voto entro domani in Senato, in modo che il Premier possa salire al Quirinale già in serata. Le urne però si allontanano, bisogna aspettare il parere sull'Italicum della Consulta, che arriverà solo il 24 gennaio. Nel PD poi la minoranza frena sulle elezioni, così l'ex segretario Pierluigi Bersani. Io sono totalmente contrario e dico, come dissi una volta, non si può vincere sulle macerie del paese, questo resta vero, aggiungo che neanche si può perdere sulle macerie del paese. E anche la corrente Area Dem, guidata da Dario Franceschini, vorrebbe un prolungamento di qualche mese di legislatura, magari per fare la nuova legge elettorale. La partita sta in mano al capo dello Stato Sergio Mattarella, che annulla tutti gli impegni per giovedì, quando è previsto l'inizio delle consultazioni. I possibili candidati premier sono sempre dentro il Partito Democratico: Franceschini, Padoan o Grasso. Elisabetta Fiorito, Radio Radio 24 e Sole 24 Ore Roma. Elezioni subito. L'opposizione reclama a gran voce il voto anticipato dopo la crisi di governo aperta dalla vittoria del no al referendum costituzionale, a cominciare dal Movimento 5 Stelle. Prima si vota meglio è, dice Beppe Grillo. Noi, aggiunge, la pensiamo così. Vogliamo una risposta dalla direzione del PD di domani. Secondo i pentastellati, si può votare con l'Italicum, la legge elettorale, al vaglio della Corte Costituzionale, da modificare poi in alcuni punti per applicarla così al Senato. Anche la Lega invoca il voto in tempi brevi e chiede alla Consulta di anticipare l'esame della legge elettorale. La data del 24 gennaio, fissata per la discussione, è giudicata irricevibile perché troppo tardi. Forza Italia, dopo il vertice di oggi ad Arcore con Silvio Berlusconi, sollecita una legge elettorale per la governabilità del Paese e poi, dice, si va dal voto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, come sentivamo, accelera l'iter della legge di bilancio. Al Senato la maggioranza accelera sulla legge di bilancio. L'intenzione è quella di arrivare al via libera definitivo entro domani senza modificare il testo già approvato alla Camera. La conferenza dei capigruppo ha fissato per le 13.30 l'inizio del voto di fiducia, una decisione contestata dalle opposizioni che parlano di blindatura inaccettabile. Nel pomeriggio l'assemblea di Palazzo Madama ha bocciato la richiesta di far slittare alla prossima settimana l'arrivo della legge in aula, avanzata da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Lega e Conservatori Riformisti, ma anche dai verdiniani che confermano comunque il loro sostegno al governo. Domani la fiducia sarà votata sul primo articolo della legge di bilancio, quello che contiene le principali misure della manovra. Le votazioni proseguiranno poi sul resto del provvedimento, mentre il via libera definitivo, salvo sorprese, dovrebbe arrivare in serata. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E già alcuni parlamentari comunque hanno fatto sapere che non voteranno la fiducia alla manovra, mentre in serata Obama ha chiamato Renzi per ringraziarlo dell'amicizia, così ha fatto il presidente francese Hollande, il primo ministro israeliano Netanyahu. Ma insomma, sulla politica torneremo più tardi. Comunque politica, scenario politico che non ha condizionato, a dispetto delle previsioni, non sta almeno al momento condizionando i mercati, con Piazza Affari che guadagna oltre il 4% ai massimi dalla Brexit. E poi c'è da parlare dei dati Istat sulle disuguaglianze. In Italia oltre un italiano su quattro è a rischio povertà, al sud quasi uno su due, e si è ampliata la forbice delle disuguaglianze, quindi tra ricchi e poveri, e di questo ci occuperemo più tardi nel corso di Effetto Note. A questo proposito, l'occupazione naturalmente è così importante. L'azienda di call center Almaviva Contact, in una nota, spiega che è costretta a ritirare la sua proposta dopo il no dei sindacati, che era una proposta sul taglio degli stipendi. Preso atto, si legge, della totale indisponibilità al percorso industriale presentato dall'azienda, ribadita anche oggi dalle organizzazioni sindacali con toni perentori, Almaviva non può che considerare superata la propria proposta, che viene quindi ritirata. E poi c'è una novità, diciamo così, se così si può dire, sull'omicidio di Regeni. Secondo quanto si apprende, il procuratore generale della Repubblica Araba d'Egitto, Nabil Ahmed Sadek, a Roma, in occasione del vertice con gli inquirenti di Piazzale Clodio, avrebbe detto ai genitori di Giulio Regeni, ricercatore universitario barbaramente torturato e ucciso in Egitto, avrebbe detto: sono tragici i fatti su cui stiamo investigando ed il mio impegno è quello di non chiudere le indagini finché non saranno arrestati i responsabili, poiché Giulio era portatore di pace. Insomma, speriamo che non sia l'ennesima tappa di questa saga inutile. A proposito di Egitto, la sicurezza egiziana ha sgominato all'alba una delle più potenti organizzazioni internazionali dedita al traffico di organi umani. Lo scrive l'agenzia MENA, precisando che i criminali, tra egiziani e altre persone provenienti da paesi arabi, sfruttavano i poveri egiziani che, pur di ricevere un compenso modesto, vendevano i loro organi. Tra gli arrestati figurano anche professori universitari, medici e infermieri. Ancora dall'estero, meno di 18 mesi per la Brexit e nessun periodo transitorio. Queste le condizioni del negoziatore dell'Unione Europea. L'accelerazione di Bruxelles sorprende Londra e questa è la sensazione che emerge di riflesso dal primo pubblico intervento sulla Brexit del capo negoziatore UE Michel Barnier, esplicito nell'indicare ottobre 2018 come punto finale della trattativa. Per Londra, che intende partire con la procedura di recesso nel marzo 2017, sono 6 mesi in meno rispetto ai 2 anni previsti. La divergenza, che per ora non ha creato un'aperta polemica, ma potrebbe generarla in futuro, nasce dalla ratifica dell'accordo. Per Barnier, i 6 mesi successivi all'ottobre 2018 dovranno infatti servire per la ratifica dell'intesa con Londra da parte dei 27 governi UE. La Gran Bretagna considerava i 2 anni come tempo per la trattativa. Downing Street si è limitata a dire di non aver mai saputo di una tempistica del genere. La signora Premier, Theresa May, ha invece ribadito che aspira a un accordo a tinte bianche, rosse e blu, come i colori dell'Union Jack, ovvero favorevole agli interessi di Londra, che, ha detto, intende continuare a operare e commerciare con il mercato interno. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E dalla Gran Bretagna alla Francia, Bernard Cazeneuve, il nuovo primo ministro francese, sostituisce il dimissionario Manuel Valls, che si è dimesso ieri, candidato alle primarie socialiste in vista delle presidenziali di primavera. E ora di nuovo in Italia con questa notizia: per il Tribunale di Napoli è trascrivibile integralmente il certificato di nascita di un bimbo nato in Spagna da una donna coniugata con un'altra donna, poiché non contrasta con l'ordine pubblico l'indicazione di entrambe le donne come genitori e l'attribuzione al bambino del loro cognome. I giudici, con decreto depositato oggi nel procedimento in cui erano ricorrenti le due donne, che ha visto l'intervento del comune in giudizio, ha ordinato all'ufficio di stato civile di procedere alla ritrascrizione dell'atto di nascita del minore concepito in Spagna. Per la cronaca, un tentato femminicidio. Ieri ne abbiamo parlato, di due femminicidi riusciti. Un uomo, Costantino Ara, aveva premeditato da almeno 4 mesi di uccidere la donna che per 45 anni era stata sua moglie. Solo grazie all'intervento del figlio quarantenne della coppia, che si è avventato sul genitore armato di pistola, il ferimento di Liliana Dettori, 61 anni, non si è trasformato in un nuovo femminicidio. È quanto ricostruito dagli inquirenti di Tempio Pausania in Sardegna all'indomani del fermo dell'uomo, che ha 71 anni, fermato per tentato omicidio. E questa notizia, di cui poi parleremo più tardi con Effetto Notte, che riguarda la scienza per la salute: 6 persone con braccia e gambe paralizzate sono riuscite a mangiare e a bere da sole grazie a un esoscheletro, un guanto high-tech realizzato in Italia dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e controllato in modo non invasivo da elettrodi all'interno di una cuffia realizzati dall'Università Tedesca di Tubinga. Poi appunto ne parleremo. Una notizia che riguarda il fumo e che non lascia alibi a nessuno: non c'è un livello di fumo che è possibile considerare sicuro. Anche fumare in media meno di una sigaretta al giorno nell'arco della vita porta a un maggior rischio di morte prima di chi non ha mai fumato a causa del tumore del polmone, di problemi respiratori e cardiovascolari. Emerge da una ricerca del National Cancer Institute. E tra l'altro un altro dato è che in Italia ogni giorno ci sono 110 nuovi casi di tumore al polmone. Per la musica, oltre ad Andrea Bocelli, sono candidati tra gli italiani ai Grammy, gli Oscar della musica, anche Laura Pausini e Ennio Morricone. Prossima edizione dei Grammy ci sarà il 12 febbraio a Los Angeles. E poi, se la voce mi regge, passiamo al calcio con il derby di Roma. La Procura federale della FIGC, guidata dall'ex prefetto Giuseppe Pecoraro, ha appena aperto un procedimento sulle frasi di stampo razzista pronunciate dal difensore laziale Lulic nei confronti del romanista Rödiger subito dopo la conclusione del derby. Ma adesso andiamo sul calcio giocato con Giovanni Capuano e il Napoli in Champions League. Giovanni? Eccomi Roberta, sì, Napoli a Lisbona in Champions League, 27 minuti nel primo tempo, 0-0 risultato, ma è una battaglia. Dopo 20 minuti quasi senza emozioni sono arrivate tutte negli ultimi istanti. C'è stato un gol annullato a Gabbiadini per fuorigioco assolutamente netto, quindi corretta la segnalazione. Poi due grandissime occasioni per il Benfica, con Guedes solo dopo un doppio errore difensivo e poi con un diagonale di Jimenez messo in calcio d'angolo da Reina. Poi pochi istanti fa ci ha provato il Napoli con un affondo sulla destra di Calleone, il traversone e la respinta affannata della difesa del Benfica. Tutto questo per dire che questo risultato al momento qualifica il Napoli, cui basta non perdere a Lisbona per andare agli ottavi di finale della Champions League, ma la partita è assolutamente aperta, anche se buone notizie arrivano da Kiev, dove c'è l'altra partita del girone e dove c'è il Beşiktaş, che è la terza squadra che lotta per qualificarsi agli ottavi di finale, che sta perdendo 1-0 a sorpresa contro la Dinamo Kiev. Quindi in questo momento Napoli primo nel girone, anche se a pari punti col Benfica, e poi Beşiktaş a quota 7, però manca più di un'ora alla fine della partita e soprattutto la partita di Lisbona è assolutamente aperta, con diversi ribaltamenti di fronte e un Napoli non perfetto in questa prima mezz'ora, cosa che Sarri aveva chiesto proprio per evitare di correre dei rischi inutili. Invece dietro il Napoli ha regalato un po' troppo, dunque sarà una serata da vivere intensamente fino alla fine. Grazie Giovanni Capuano, e prima della fine naturalmente poi ci aggiorneremo per capire come sta procedendo. Mi chiede invece un ascoltatore affettuoso come procede la mia salute, come sentite la voce, forse per tutto l'inverno me la trascino così, da Trescore Balneario vicino Bergamo, e poi dice: sono contrariato dalla vittoria dei dinosauri e dai qualunquisti dei 5 Stelle. Poi c'è un altro messaggio su questo tenore: è stato irresponsabile da parte di Renzi personificare il referendum, adesso rischiamo di essere governati nel Movimento 5 Stelle, la vera cozzaglia. Vabbè, questi sono pareri naturalmente personali, man mano che arrivano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349 238 6666. Un altro ascoltatore, Silvano da Treviglio: ma abbiamo mandato a casa Ciccio Bello Renzi, adesso mettiamo ancora dei comunisti al suo posto, allora siamo masochisti, ci piace darci delle martellate sui testicoli. In realtà poi diciamo che una lettura anche della sconfitta di Renzi da parte di molti è che si è spostato troppo verso il centro, che invece la sinistra non riesce ad avere parola. Quindi vedete, sono tante le opinioni. 349-238-6666, dicevo, pagina Facebook di Effetto Notte, viabilità, e poi di nuovo insieme. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ho riassunte come sempre nella prima parte di Effetto Notte, poi vi ricorderò i titoli, i fatti principali, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21. Intanto ci avviciniamo agli approfondimenti, ovviamente anche questa sera ci occuperemo in buona parte della crisi di governo, degli scenari che si prospettano, di quali sono le decisioni, le mosse che verranno fatte e verranno prese nelle prossime ore. Intanto i vostri messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte, con chi critica di qua, chi critica di là e quali sono gli scenari che ciascuno auspica. Per esempio dice questo ascoltatore, Gianfranco da Milano: secondo me, giocandosi in prima persona, Renzi sapeva bene che non avrebbe potuto vincere il referendum, lo voleva perdere, l'ha perso, ma con un endorsement del 41% degli italiani. Questo è il solito complottismo, dietrologia, non lo so, però legittimo, dice: nessun politico ci è mai riuscito, il resto va da sé. Con il voto a marzo, dice questo ascoltatore, avrà quel suffragio popolare che gli hanno sempre rinfacciato di non aver avuto e poter finalmente fare le riforme. Poi sentiremo tra poco il commentatore politico come la pensa anche su questa ipotesi. Intanto però vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata. Mattarella dice: sono inconcepibili le elezioni senza leggi omogenee per il Senato, quindi per la Camera, e Renzi pensa a un governo di responsabilità o andare subito al voto. Nel frattempo la Consulta fa sapere che darà la sua valutazione sull'Italicum il 24 gennaio. E poi Renzi verso la direzione PD che si terrà domani, confermerà le dimissioni da Presidente del Consiglio, probabilmente non lascerà però il ruolo di segretario del partito. Intanto ci sono le opposizioni che chiedono di andare subito al voto. Piazza Affari non ne risente di questa crisi di governo al momento, vola e chiude il FTSE MIB a più 4,5%. Poi l'Idatista: oltre un italiano su quattro a rischio povertà, e al sud addirittura un italiano su due, mentre aumenta la forbice tra i ricchi, i più ricchi, e quelli più poveri. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, la prima ministra May dice che è d'accordo di non andare oltre i 2 anni per l'uscita, per la Brexit, e poi rivelerà i piani prima di avviare l'iter di uscita. In Francia Bernard Cazeneuve è il nuovo primo ministro dopo le dimissioni ieri di Valls, Manuel Valls, che si candida alle primarie socialiste in vista delle presidenziali francesi. Essendo il Partito Democratico il partito che ha più parlamentari, dunque sia alla Camera che al Senato, dica la prima parola e faccia la prima mossa e si incarichi di suggerire una via d'uscita agli alleati, al Parlamento, al Paese. Questo detto oggi, l'avete sentito, il ministro dell'interno, Alfano, l'aptus è l'inferno che stiamo vivendo in questo momento, non lo so, comunque chissà cosa ne uscirà. Alleato di governo Alfano del PD di Renzi, in questo momento d'impasse, quindi di blocco, di congelamento, come volete dire, visto che sono state congelate le dimissioni di Renzi da parte di Mattarella in attesa del compimento dell'iter della manovra economica. E Alfano dice: tocca al PD, insomma, visto che fa fa parte, appunto, che è il partito di maggioranza relativa, partito del governo, di trovare di indicare la direzione per uscire da questa situazione, quindi far ripartire l'azione di governo e far ripartire il paese. Poi parleremo di chi chiede subito le elezioni, di chi invece da un'altra parte sta un po' frenando. Poi la Consulta ha fatto sapere oggi che darà il suo parere sull'Italicum. E sapete, deve passare al vaglio della Consulta il prossimo 24 gennaio. Ma prima di tutto, cosa avverrà nelle prossime ore? Per chi suonerà la campanella, quella che simbolicamente si passano, no? Il presidente del Consiglio uscente e quello invece neo incaricato, è diventata famosa nel passaggio tra Letta e Renzi, no? Quel freddo che c'era stato. A proposito di freddo, quindi dopo il congelamento delle dimissioni di Renzi da parte di Mattarella, domani ci sono due appuntamenti importanti. C'è la fiducia, si vota la fiducia sulla manovra economica, e poi c'è la direzione del PD, dove Renzi nel suo intervento confermerà, come dicevamo, le sue dimissioni da Presidente del Consiglio. Probabilmente non dirà che si dimette da segretario del partito e probabilmente non spingerà su elezioni anticipate. Per quanto riguarda le consultazioni, inizieranno per la formazione di un nuovo governo tra giovedì e venerdì, e poi l'idea di Renzi, dalle ultime notizie, sarebbe quella di proporre un bivio: o un governo di responsabilità nazionale con l'ampia partecipazione anche delle opposizioni, oppure subito elezioni. Ma qual è la strada giusta? Lo chiedo al nostro commentatore politico del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Buonasera Guido. Buonasera, buonasera a voi. Quindi Alfano chiedeva, no, dica al PD come se ne esce. Che sì, cosa succederà nelle prossime ore, Guido? Che cosa auspichi tu? Alfano diceva, dica il PD come se ne esce, è giusto, perché il partito, diciamo, di maggioranza relativa, certo, diciamo che è, quindi ha l'onere, diciamo, di affrontare per primo la situazione. Alfano diceva anche, votiamo se possibile, prima possibile, anche a febbraio. Ora, questa ipotesi di febbraio non mi sembra assolutamente verosimile. Sappiamo che il Presidente della Repubblica, Mattarella, si muoverà con determinazione, sì, ma anche con grande cautela, e soprattutto c'è il fatto che, come sappiamo, abbiamo due sistemi, due leggi elettorali diverse, una per la Camera, cioè l'Italicum, cioè un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per chi supera il 40%, oppure un ballottaggio in caso nessuna forza politica raggiunga questa soglia. Al Senato invece c'è il cosiddetto consultellum, cioè un sistema proporzionale puro con una soglia dell'8% su base regionale e un voto di preferenza. Sono due sistemi diversi, e quindi è evidente che il Presidente della Repubblica punta a dire, prima mettiamo, diciamo, facciamo in modo di non avere due sistemi diversi prima di andare alle elezioni, il che mi sembra una notazione prima ancora che politica di buon senso. E sappiamo anche che la Corte Costituzionale affronterà il tema dell'Italicum in una riunione il 24 di gennaio. Quindi il percorso sarà probabilmente quello di avere un governo, chiamiamolo di emergenza, chiamiamolo di responsabilità nazionale, come ha detto Renzi, che ha al primo punto della sua agenda proprio la riforma elettorale e i provvedimenti economici che diciamo si dovessero rendere necessario in questa fase di incertezza. Dopodiché, quando avremo la nuova legge elettorale, potremo, diciamo, guardare alle elezioni, che certamente non saranno più nel 2018 con la scadenza della legislatura, ma avverranno, diciamo, nel 2017. Però un conto è dire febbraio, un conto è dire aprile, certo, maggio. Ci vogliono i tempi tecnici. Guido, sentiamo un attimo Del Rio, vedo sulla 7 di martedì. Buone, vediamo Salvini, se lo becchiamo nel punto ci confrontiamo. Giusto. È una proposta, io credo, noi dobbiamo irrobustire la proposta di centrosinistra. E allora che succede? Succede che diamo la disponibilità, come abbiamo sempre detto, di massima collaborazione al capo dello Stato, perché possa fare un governo di scopo che ci porta alle elezioni. Entro perché quando? Non possiamo fare un altro governo non pienamente legittimato. Però perché, scusi, non legittimato? Voi avete una maggioranza, c'è un leader che si è giocato tutto, sì, sul referendum. Adesso, diciamo, nei partiti di una volta sarebbe rimasto segretario, avrebbe detto adesso passa a... Facciamo un nome a caso, Del Rio, e ci, sì, pensa lui a guidare il governo. No, il tema è questo, che manca un anno alle elezioni sostanzialmente, sì, perché allora che, Che senso ha prolungare questa cosa? Facciamo la nuova legge elettorale, non possiamo fare un governo che in un anno riparte da capo, prova, non c'è il tempo per fare una cosa che serva ai cittadini, deve servire ai cittadini il governo. Ma perché deve ripartire da capo? Diceva che le cose le avete fatte. Quindi Guido, lo stesso sottosegretario Del Rio dice che in realtà anche il PD non ha voglia di aspettare, però sentiamo anche le opposizioni, per esempio Fico del Movimento 5 Stelle. Noi ne vogliamo andare alle elezioni il prima possibile per dare al Paese la possibilità di avere un governo che parla e che legiferi su tematiche importanti per i cittadini, con la prima legge elettorale possibile, che è quella rivista dal punto di vista costituzionale dalla Corte. Questo Movimento 5 Stelle, ora Salvini, leader della Lega. Per rispetto nei confronti di 30 milioni di italiani che sono andati a votare, voto subito, il prima possibile, io dico con qualunque legge elettorale. La Lega dice con qualunque legge elettorale, faccia in fretta la consulta, faccia in fretta il Presidente della Repubblica. L'Italia ha bisogno di un Parlamento e di un governo legittimi e seri. Quindi Guido, allora abbiamo detto che bisogna aspettare la valutazione della consulta sull'Italicum, perché, come diceva anche Mattarella, è inconcepibile andare a elezioni senza avere delle leggi omogenee per il Senato e per la Camera, e quindi bisognerà aspettare, al di là delle pressioni, insomma, delle opposizioni. Però abbiamo capito che tutti, appena è possibile, vogliono andare a elezioni. Sentivamo prima Del Rio, no? Che fa parte comunque del governo. Senti, invece nell'imminenza si fanno i nomi, appunto, di Padoan, di Gentiloni, di Grasso, di Franceschini. Secondo te chi potrebbe essere nelle consultazioni che partiranno probabilmente giovedì? Sono tutti nomi, tra virgolette, buoni per un'ipotesi del genere. Evidentemente sono nomi che verranno suggeriti dal PD, al quale appunto spetta l'onere di questa scelta. Sono dei profili diversi, con storie anche personali e politiche diverse alle spalle. Per esempio Padoan, che è il ministro dell'economia, quindi uno dei pilastri dell'attuale governo, non è un parlamentare, è un tecnico vero e proprio, cioè è un economista con una grande esperienza internazionale, molto apprezzato all'estero, però non è un parlamentare. Il profilo invece del Presidente del Senato, Grasso, è di un ex magistrato che è diventato parlamentare del PD e è la seconda carica dello Stato, quindi quando parliamo per esempio di un governo di responsabilità nazionale potrebbe essere la persona, potrebbe essere lui. Poi ce ne sono scelte più, diciamo, con un profilo più strettamente politico, che sono quelle di Franceschini, già segretario del PD, o di Gentiloni, attuale ministro degli esteri. E direi che comunque siamo, diciamo, in questa zona, diciamo, che secondo me che verrà scelto il successore di Renzi, è molto probabile, diciamo, non possiamo escludere sorprese, ma insomma mi sembra che questo è un buon quartetto di nomi. Con questo possibile governo di scopo di cui parlava poco fa Del Rio. Senti Guido, dice, per chiudere, per esempio tra gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Simone: qualcuno spera che non passi neppure la manovra economica, mandando il paese a sbattere. Stasera c'era una nota di Formigoni del nuovo centrodestra, dice: io e altri pronti a non votare la fiducia. Il Senato chiede una settimana per fare l'esame perché il testo va modificato. Secondo te c'è possibilità che non passi la fiducia domani? Sarebbe un risultato, diciamo, sarebbe clamoroso, diciamo, no? Per certi aspetti, però i numeri ci sono, anche se si sconta qualche defezione. Ci dovrebbe essere un movimento più forte di qualche senatore che non vota la fiducia. C'è da dire che effettivamente però le opposizioni hanno posto questo problema, cioè dice: com'è possibile che un governo che in fondo è già dimissionario, che ha già annunciato Renzi le dimissioni, possa porre un voto di fiducia troncando sul nascere il dibattito al Senato, no? E quindi si chiede, diciamo, che il Senato possa fare, ancorché in tempi brevi, un passaggio di esame vero, insomma. Non è stata questa comunque l'orientamento della riunione oggi dei capigruppo della maggioranza, quindi si punta decisamente a votare domani o dopo domani, e quindi di fare legge dello Stato la legge di bilancio. Sarebbe clamoroso se così non avvenisse, però ecco, voglio dire, io comunque lascerei comunque aperta, diciamo, a una possibilità di questo genere, perché siamo entrati in una fase in cui, diciamo, si gioca una partita complicata e non si possono escludere nemmeno colpi di coda o colpi di scena. Chiaramente. Grazie Guido Gentili del Sole 24 Ore. Ciao Guido. E poi i vostri messaggi. Francesco dice: in primo luogo ci vorrebbe una legge elettorale che non olezzi di incostituzionalità come al solito. In particolare io sogno da sempre un modello che combini presidenzialismo e sistema proporzionale, ma è pura illusione, dice Alessandro. Scrive che tutte le forze politiche la smettano di fare campagna elettorale e intelligentemente si siedano a un tavolo per fare quelle due o tre cose essenziali. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Ringrazio tutti gli ascoltatori che si preoccupano della mia salute, chi mi chiede se sono vaccinata. In realtà la mia è una bronchite, non c'entra con l'influenza, quindi si trascina, dovrei stare perennemente al caldo. Ma proseguiamo, abbiamo parlato lungamente della crisi di governo, di quello che si prospetta, delle varie passi, tappe che ci saranno nelle prossime ore, e poi domani aspetteremo naturalmente di vedere che cosa succede alla direzione PD e poi se si voterà questa fiducia alla manovra, perché prima editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili diceva, come anche prospettava qualche ascoltatore, non è detto che sia tutto così scontato, che passi la fiducia eccetera. In questi momenti così complessi ci si può aspettare un po' di tutto. Allora, mentre voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, tra pochi istanti vi ripeto quali sono i fatti principali. Sergio scrive, per esempio: il voto si è data voce al popolo, basta governi non eletti da nessuno. Poi Franco invece scrive: cosa succederà? Melina totale fino a primavera 2018, tutto calcolato. E poi molti altri messaggi, per esempio dice questo ascoltatore: si dia l'incarico al presidente del CNEC, al primo consiglio dei ministri, nomini omeopaticamente Renzi presidente dell'ente che voleva abrogare. Va bene, ci sta anche un po' di ironia. Qualcuno dice: gli italiani, vediamo se lo ritrovo, torneranno in modo indifferente a fare, ecco dice Michele, a fare come di consuetudine l'albero natalizio. Vabbè, almeno le cose buone, simpatiche, che ci danno calore, teniamocele al di là di tutto. Ma i titoli principali: la crisi di governo, domani il voto sulla legge di bilancio e la direzione PD, Renzi è orientato a restare capo del partito e pensa a due opzioni, governo istituzionale o elezioni. Le opposizioni chiedono il voto subito, prima si vota meglio è, dice Grillo, e la Consulta fa sapere che si esprimerà sull'Italicum il 24 gennaio. Borsa anche oggi bene, Piazza Affari, Milano chiude con più 4,15% ai massimi dalla Brexit. I dati Istat sulle disuguaglianze, oltre un italiano su quattro a rischio povertà, e poi l'omicidio Regeni, ai genitori di Giulio, il procuratore egiziano dice: troveremo i responsabili. Gran Bretagna, la prima ministra Theresa May annuncia che il governo britannico non intende estendere i negoziati per la Brexit oltre i due anni. Bimbo con due madri, il Tribunale di Napoli dice sì alla trascrizione dell'atto di nascita del minore concepito in Spagna. Scienza per la salute, con un guanto ai tech, sei quadriplegici mangiano da soli, si tratta di un esoscheletro nato fra Italia e Germania. E allora adesso soffermiamoci sui dati dell'Istat relativi al rischio povertà nel nostro paese. Oltre un italiano su quattro, cioè il 28,7% dei residenti, nel 2015, stiamo parlando naturalmente di dati 2015, visto che il 2016 non è ancora finito, nel 2015 un italiano su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale. È una quota in realtà stabile rispetto all'anno prima, che era del 28,3%, ma ancora lontana dal target dell'Unione Europea, secondo cui entro il 2020, cioè tra circa tre anni, l'Italia dovrebbe ridurre gli individui a rischio sotto la soglia dei 12.882.000 persone. Metà famiglie in Italia può contare su un reddito di 2.000 euro al mese e nel paese aumenta la disuguaglianza, si allarga infatti la forbice tra ricchi e poveri. Fra l'altro, come al solito, tanto per cambiare, è il sud che se la passa peggio, perché quasi uno su due, ovvero quasi la metà dei residenti nel mezzogiorno, risulta a rischio povertà o esclusione sociale. Ne parliamo col professor Domenico De Masi, che non ha bisogno di presentazione, ma insomma professore emerito di sociologia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Professor De Masi, buonasera. Buonasera. Professore, quindi purtroppo la situazione continua a essere questa, la crisi economica non è stata superata, magari c'è una timida ripresa, ma diciamo, se oltre un italiano su quattro è a rischio povertà e al mezzogiorno uno su due, ce la passiamo piuttosto male ancora. Ma guarda, intanto cominciamo dal fatto che quando si parla di crisi per 10 anni consecutivi e ogni anno si dice che l'anno prossimo cesserà e non cessa, significa che non si tratta di crisi ma di una situazione ormai strutturale. Mm. Cioè è strutturale che i paesi i quali applicano le teorie neoliberali, e ormai sono quasi tutti, questi paesi hanno tutti la capacità di produrre ricchezza, non in grandi quantità i paesi ricchi, molto di più i paesi emergenti, ma non sono capaci di distribuirla, per cui dovunque aumenta il divario tra ricchi e poveri. I dati a cui lei si riferiva riguardano la povertà relativa, diciamo così. E cosa rischio... si intende, professore, quindi per povertà relativa? Ma c'è un dato statistico che dà come povertà assoluta quella che è al di sotto della metà del reddito medio del paese. Uh-huh. E l'altra invece che è leggermente più alta ma che è a rischio di diventare povertà. Purtroppo la povertà assoluta in questi ultimi tempi è addirittura raddoppiata, siamo passati da 3 a 6 milioni circa di italiani poveri, cioè un decimo degli italiani è proprio povero povero, nel senso che stenta ad arrivare alla fine del mese. Di questi 6 milioni più di un milione sono bambini e questo è veramente gravissimo. La forbice si allarga e da una parte aumentano i poveri e si impoveriscono sempre di più e dall'altra i ricchi diventano sempre più ricchi. E noi avevamo all'inizio della crisi nel 2007 10 famiglie che possedevano una ricchezza pari a quella di 3 milioni e mezzo di italiani. Oggi le stesse 10 famiglie posseggono una ricchezza di 6 milioni di italiani, quindi la loro ricchezza è quasi raddoppiata, così come è quasi raddoppiato il numero dei poveri. E professore, quindi di ricette ce ne sono, quale sarebbe il suo suggerimento su come invertire la rotta? Nel corso della storia degli ultimi 200 anni, ripeto, le società, i paesi neoliberali sono stati capaci di produrre la ricchezza ma non di distribuirla equamente. I regimi, chiamiamoli così, diciamo, i sistemi capaci di distribuire la ricchezza o almeno più attenti alla distribuzione della ricchezza sono quelli socialdemocratici. Guardi che anche la risposta, diciamo, data al referendum l'altro giorno era molto connessa al fatto che aumenta la povertà e aumenta la disoccupazione. Ora, nel caso dei figli disoccupati, se hanno genitori o nonni in grado di mantenerli, il problema non si avverte ancora in modo drammatico, ma quando questi figli diventeranno adulti e resteranno disoccupati e non avranno nonni o genitori a cui attingere, allora il fatto diventa drammatico. Tra l'altro, collegato a questo che sta dicendo lei, professore, c'è anche un altro dato che riguarda gli italiani che se ne vanno, no? Soprattutto i più giovani. Nel 2015 è cresciuto il numero delle emigrazioni, quindi cancellazione dell'anagrafe per l'estero, sono state 147.000, l'8% in più nel 2015 rispetto al 2014. Anche questo quindi è un fenomeno legato appunto al certo rischio di non riuscire ad avere un futuro in Italia. No? Certo, purtroppo c'è da dire che non ho capito dove vanno. Perché se si eccetto alla Germania che ha dato insomma grande attenzione al welfare, tutti gli altri anche paesi... la Francia o finora la Gran Bretagna, molti italiani andavano in Gran Bretagna, no? Sì, andavano in Gran Bretagna, diciamo, i figli dei ricchi con la speranza di avere un master alla London School of Economics e di trovare poi un posto di lavoro alla City. Tra l'altro sono anche in difficoltà loro dopo il Brexit. Non è semplice neppure più per loro ormai la situazione, è che la disoccupazione giovanile in alcuni casi come la nostra è addirittura mostruosa, ci si vanta del fatto di averla ridotta dal 40 al 36%, ma negli altri paesi insomma veleggiamo tra il 15, il 25, il 35%. Dovunque la situazione è drammatica. Speriamo adesso, lei diceva una questione strutturale anche molto diffusa in Europa e non solo, speriamo insomma che il prossimo governo, le prossime decisioni che verranno prese in Italia saranno soprattutto nell'interesse del paese e per superare certe situazioni, certe condizioni come quella che abbiamo appena analizzato e descritto. Grazie professor Domenico De Masi, grazie. Grazie. Buona serata. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che tra poco vi ricordo in pochi secondi, sempre Roberta Giordano con voi, sempre i vostri messaggi al 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio Cristiana sui nomi papabili per, come successori a Renzi, dice se si accordano su un governo grasso, poi cominciano a litigare per nominare il presidente del Senato, si chiedeva, insomma speriamo di no. Intanto le notizie, appunto Mattarella che dice sono inconcepibili le elezioni senza leggi omogenee, quindi bisogna aspettare la Consulta che ha fatto sapere che si pronuncerà sull'Italicum il 24 gennaio, mentre Renzi propone due opzioni, o il governo di responsabilità o si va al voto. E poi domani ci sarà la direzione PD in cui Renzi confermerà le dimissioni, però probabilmente non quelle da segretario di partito. E poi nonostante tutto, Piazza Affari vola con i titoli delle banche, Piazza Affari ha chiuso a oltre 4%, e poi oltre un italiano su 4 secondo i dati Istat è a rischio povertà, ne abbiamo appena parlato. Europa. Europa 24 notte. Per i funzionari europei ci sarà la formazione obbligatoria, coloro che sono impegnati nelle missioni verranno presi in ostaggio, dovranno superare posti di blocco anche illegali, fronteggiare le più svariate situazioni di pericolo, sono appunto queste esercitazioni a cui saranno sottoposti. E il segretario generale dello European External Action Service ha assegnato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e all'Arma dei Carabinieri la responsabilità di questa formazione. Il direttore scientifico Andrea De Guttri, al microfono di Alessandra Schepisi, ci spiega a chi sono rivolti questi corsi e come funzionano. Sono tutti funzionari dell'Unione Europea di rango elevato che verranno destinati ad operare in paesi a cosiddetto alto rischio, sia per partecipare alle riunioni che si terranno in loco, sia per missioni più lunghe, perché magari vanno presso le delegazioni dell'Unione Europea, e che quindi hanno bisogno di acquisire l'atteggiamento e di avere le conoscenze e competenze necessarie a sopravvivere in un ambiente che è potenzialmente ostile. Il contenuto di questi corsi quale sarà? Quali saranno le materie? Dunque, sono corsi sulla sicurezza personale e si fanno lezioni che vanno dai temi di come minimizzare il rischio, come riuscire a capire che ci troviamo in una situazione potenzialmente pericolosa, quali sono i comportamenti corretti da tenere in presenza di un pericolo, e poi vi sono una serie di esercitazioni, passeranno dai dei posti di blocco legali, illegali, dove vanno a fronteggiare la popolazione civile che è molto arrabbiata con loro, saranno oggetto di presa di ostaggio, quindi verranno proprio fatti ostaggi per qualche ora, improvvisamente ci saranno poi dei cecchini che cercheranno di sparare contro di loro, e poi gli insegneremo come organizzare al meglio l'ufficio in modo tale da essere più protetti possibili quando sono all'interno dell'ufficio, anche dalla loro casa privata. L'80% del corso sono esercitazioni pratiche che vengono svolte fuori in ambienti ricostruiti ma molto credibili, e loro dovranno fare tutta una serie di percorsi, di attività e via dicendo, a bordo di macchine, e alcune volte saranno scortati, alcune volte non sono scortati, e mano a mano che fanno il loro percorso avranno appunto delle brutte situazioni che dovranno dimostrare di riuscire a fronteggiare mettendo in pratica le informazioni che abbiamo dato loro nella parte teorica. C'è bisogno quindi della formazione specifica, anche perché comunque i pericoli sono aumentati anche con l'allerta terrorismo? Assolutamente, ormai abbiamo un numero crescente di casi in cui civili, parlo sia di personale del mondo dell'informazione, così come degli operatori umanitari, così come quelli che vanno a monitorare le elezioni, monitorare i diritti umani o fare cooperazione, sono stati oggetto di attività illecite, oggetto di attività di terrorismo, e ormai è un obbligo per chi manda queste persone sul campo, quindi sia per l'Unione Europea, le Nazioni Unite, ma anche per le organizzazioni non governative, di far quello che è possibile fare per minimizzare i rischi cui vanno incontro. Tra questi obblighi vi è anche quello di assicurare un'adeguata formazione, ed è per questo che l'Unione Europea ci ha chiesto di organizzare questi corsi, proprio per implementare un obbligo dell'Unione Europea di mandare le persone in posti pericolosi, perché questo è purtroppo necessario, però garantendo loro il minimo livello possibile di rischio. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Bene, adesso cambiamo tema, parleremo tra pochissimo di un'invenzione straordinaria. Intanto vedo i vostri messaggi, qualcuno che risponde all'ascoltatore di prima che diceva dopo Renzi mettiamo un altro comunista, al di là che nessuno può, credo, mai definito Renzi comunista, anzi lo si accusa di essere poco di sinistra. E poi dice questo ascoltatore: non capisco gli italiani che commentano l'esito referendario con le vecchie categorie politiche di destra e sinistra, sembra che vivano in una bolla temporale ferma agli anni 70, così anche Enrico da Modena 2016, ed ancora ci sono italiani che pensano fascisti e comunisti, siamo proprio il paese di Guareschi. Ma ora occupiamoci di questa straordinaria invenzione, vi dicevo, che ha permesso a 6 persone con braccia e gambe paralizzate di mangiare e bere da sole grazie a un esoscheletro, cioè un guanto high-tech realizzato in Italia dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, controllato in modo non invasivo da elettrodi all'interno di una cuffia che sono realizzati dall'Università Tedesca di Tubinga, e tutto è pubblicato sulla rivista Science Robotics. E ne parliamo con la professoressa Maria Chiara Carrozza, che saluto, buonasera. Buonasera. Docente dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e molti si ricorderanno ministra dell'istruzione, università e ricerca del governo Letta. Professoressa, allora ci sembra una cosa incredibile, possiamo sperare quindi in questa possibilità per che si possa allargare ad altre persone nelle stesse condizioni? Sì, sì, possiamo sperarlo, ovviamente ci aspetta ancora molto lavoro per ingegnerizzare il dispositivo, per provarlo ancora in altri centri clinici e con più pazienti, però i primi risultati che abbiamo oggi pubblicati su Science Robotics dicono che questa strada è percorribile e dà dei risultati. Senta, e come è stato possibile arrivarci? Nel senso, se spiega così come funziona, come si è arrivati a questo martingegno? Dunque, intanto ci si arriva con anni di lavoro, certo. Quindi la prima cosa è il lavoro. E questo è un sistema che si compone di due parti fondamentali, un esoscheletro che è un robot miniaturizzato che si indossa sulle dita, in particolare l'indice e il pollice, che devono fare opposizione durante alcune attività di presa, per esempio quando prendo la forchetta o quando prendiamo una carta di credito o una penna, noi muoviamo e opponiamo l'indice e il pollice. Allora, questo sistema con dei motori esterni e una specie di guanto indossabile accompagna il movimento dell'indice e il pollice che passivamente vengono mossi per fare questi movimenti. La cosa bella è che questa intenzione di aprire e chiudere le dita, che in un paziente che ha subito una lesione spinale non è più possibile a causa della lesione alla spina dorsale, quindi dell'interruzione del circuito interno che porta i comandi alle dita, avviene tramite una serie di elettrodi che attraverso un caschetto leggono l'alterazione dei segnali cosiddetti elettroencefalografici e capiscono l'intenzione di aprire e chiudere la mano e spediscono questa intenzione al robot che apre e chiude le dita. Quindi è come se noi dall'esterno ripristinassimo la connessione fra l'intenzione motoria e la chiusura, apertura della mano, e quindi accompagnando il movimento del soggetto che riesce ad afferrare una forchetta, a svolgere attività di vita quotidiana. Per chiarissimo, esempio. E quindi si spera che nel prima possibile possa essere esteso a tutti questa vostra invenzione incredibile, appunto una collaborazione tra Italia e Germania. Professoressa Maria Chiara Carrozza, io la ringrazio moltissimo e le auguro buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie ancora. C'è Giovanni Capuano, sì, Giovanni Capuano sul Napoli, come prosegue Giovanni? Eccomi, sempre 0-0, settimo minuto del secondo tempo, grandi occasioni per il Napoli in questo avvio di ripresa, Gabbiadini prima, Calleon dopo, ma la difesa del Benfica tiene. Però la notizia meravigliosa per i tifosi del Napoli è che a Kiev, la Dinamo Kiev sta vincendo 4-0 con il Beşiktaş, che tra l'altro è anche in 10 uomini perché ha perso un uomo per espulsione in occasione del rigore del 2-0, e quindi in questo momento la qualificazione del Napoli è blindata. E tra l'altro i partenopei sarebbero primi in classifica se finisse così a Lisbona, o insomma se non perdessero. Grazie Giovanni Capuano, e questo per la Champions League. Noi ci aggiorniamo brevemente alle 22:00.